La daremo soltanto con anche l'ora di cucinava, altrimenti ovvio. Non vale. Esatto. Un pacchetto completo. Ti ringrazio per la par condicio. Vedi che bravi che siamo. Comunque a Luca, davvero. Grazie davvero, anche perché pensavo questi gli Immolation, che pensavo fosse tutto così il programma, soltanto questo, come sound gutturale, come voce, quindi sei stato bravo. Mi sono limitato infatti, a farmi violenza, però ce l'ho fatta. Esatto. Bene, si volta pagina, andiamo al 1982, 81 anzi, è il secondo album, visto che ce l'hanno citato come cantante, non abbiamo proposto nulla dei Black Sabbath, misceliamo le due cose, poi arriveremo anche a Ozzy naturalmente. Black Sabbath con Ronnie James Dio, dal suo secondo album, perché il primo era il bellissimo Heaven and Hell, poi è arrivato questo secondo lavoro, poi se non sbaglio c'è stato il doppio album dal vivo, e poi screzi all'interno della formazione, sì, ho fatto sì che se ne andasse, poi sappiamo quale altro tipo di carriera naturalmente ha portato avanti il grande Ronnie James Dio. E poi dopo quest'album, dopo il live, arrivò Born Again, che vedeva alla voce Ian Gillan, unico album dei Black Sabbath con anche Ian Gillan, che diciamo era un po' sempre l'antagonista, possiamo dire, essendo il cantante dei Deep Purple, antagonista dei Black Sabbath. Bene, il pezzo è appunto quello che chiude la side A di questo lavoro, che si intitola così, con questa intro particolare. Siamo in diretta 4:02 nella mattinata di sabato 17 di maggio. Marco Gravelli, Simone Scavo, Luca Marchetti, Max De Riu, Black Sabbath, Mob Rules. allora agli amici che ci stanno seguendo magari fin dall'inizio, so che ci sono coloro che ci stanno seguendo dallo scoccare della mezzanotte, da quando è partita questa particolare nottata Hard and Heavy Nightmare qua su Rock FM. 3351007777 il nostro numero di SMS. No Arms né Rammstein né Offspring questa notte non li mettiamo, cari amici. Vabbè, a parte tutto, io ringrazio veramente tutti coloro che ci stanno inviando gli SMS. Abbiamo ascoltato la grande, grandissima voce di Orange is Dio, e noi che l'abbiamo conosciuto, intervistato, incontrato qui, lui è veramente una persona affabile, un grandissimo uomo, un grande personaggio. A volte si pensa che le rockstar, più sono rockstar, più snobbano il tutto, invece vi credetemi, a volte sono le band che incidono un album, arrivano subito al successo, sono quelli che se la tirano, non certo Orange is Dio e nemmeno il prossimo che si chiama David Coverdale, che quando venne qui in radio, purtroppo Max non ha avuto l'opportunità di incontrarlo, un'influenza mi ha bloccato, ti ha bloccato quel giorno, esatto, lui è entrato conoscendo nessuno della radio, si è giustamente andato a salutare tutti, anche la donna delle pulizie dell'epoca che c'era, quindi veramente una grande persona, non è da tutti naturalmente fare questo, soprattutto se si chiama David Coverdale. Cosa hai scelto degli Whitesnake? La classe non è acqua, permettimi di aggiungere questa considerazione, Marco. Ovviamente David Coverdale ancora non era arrivato in questa lunga notte dedicata all'hard rock e heavy metal, allo speciale Hard and Heavy Nightmare. Ricordo che siamo in diretta dagli studi milanesi, dallo studio 1 e anche unico. Ah, ma ce ne sono altri, però adesso no, è vero. È l'unico. La postazione della diretta è questa. Siamo in diretta dagli studi di Milano, Marco Garavelli, Max De Rio e Simone Scavo, che è ancora con noi. Luca Marchetti e Witching Hour ha terminato la sua onda, ma è ancora qui, si aggira, sta lavorando alacremente, soprattutto al beveraggio. Sì. È giusto così. Allora, dicevamo di David Coverdale, del grandissimo personaggio, una grandissima voce, anche lui ovviamente non poteva mancare in questa lunga nottata dedicata alla buona musica. Parliamo di Come and Get It, l'anno era il 1981, la canzone che ho scelto per voi è Wine, Women and Song. pezzo lo mettevo sempre a linea rock, questo pezzo, mi piaceva troppo, proprio rock and roll, Why Women and Song, questo bellissimo album con grandiosi a livello di musicisti, veramente grandissimi nomi. Qualcuno, Marco, dice che questa probabilmente è la migliore formazione con la quale i Whitesnake nel corso della loro storia si sono presentati. Sapete che il progetto Whitesnake è di fatto legato alla figura di David Coverdale, che nel corso degli anni ha alternato i musicisti con i quali ha collaborato. Questa lineup in effetti merita il rispetto e la considerazione, visto che si parla di John Lord alle tastiere, le due chitarre erano Bernie Marsden e Mickey Moody, al basso c'era Neil Murray e alla batteria c'era Ian Pace. Quindi grande formazione per i Whitesnake. 1981, Come and Get It, One Woman Song era il titolo di questo brano. Si parlava di una grande signorilità nell'atteggiamento di David Coverdale. Beh, insomma, stiamo parlando di un altro personaggio che ho avuto modo di incontrare in un paio di occasioni, e anche lui è veramente una persona di gran classe, e lo si può capire anche dalla musica che fa con i suoi Queensryche. Stiamo parlando di Jeff Tate. Tra l'altro vi svelerò questo piccolo aneddoto, questa serata serve anche un po' a queste cose. Io ho chiamato Geoff Tate per anni il cantante dei Queensryche, fino a quando non ho avuto il piacere e l'onore di intervistarlo proprio qui negli studi di Rock FM, e lui ovviamente mi ha corretto anche con la faccia un po' seccata, come dire, mi chiamo Jeff Tate. Vabbè. Capita, no? Capita, cognomi capita. È sempre particolare, come va se bene, va bene. Se vai in Francia, Max Derieux, no, invece Derieux, esatto, no, Gravelli, no. Gravelli, è vero. Insomma, si parla di Queensryche, e quando si parla di Queensryche, almeno per me personalmente, non me ne vogliano gli amanti magari degli altri lavori, degli altri album, sicuramente all'altezza della qualità del prodotto, che è sempre stata molto alta, però ovviamente Operation Mindcrime, il primo capitolo di Operation Mindcrime, rimane secondo me davvero un episodio fondamentale nella loro storia e nella storia del buon hard rock e del buon heavy metal. E allora eccolo, Operation Mindcrime, i Queensryche, questa è I Don't Believe in Love. primi giorni di giugno saranno anche dal vivo qua a Milano, dove presenteranno il Mankind volume 1, volume 2. Qui sarà assolutamente, se non li avete mai visti, uno spettacolo imperdibile. Poi anche nel volume 2, come special guest, è presente come un personaggio Ronnie James Dio, che abbiamo ascoltato prima. Grandiosi, Queensryche, I Don't Believe in Love, da Operation Mankind. 4:17 minuti primi, ci teniamo a dire l'orario, bravo, perché siamo Marco in diretta. Questa mattina Simone mi scrive una mail dicendo: ma guarda, se hai questo è molto raro, non lo trovo, che poi non era così raro, perché è del 92, colonna sonora di Buffy the Vampire Slayer, e mi dice: alla fine c'è un brano cantato da Rob Halford. Esatto, ha questa grande voce Rob Halford, ma non è solo lui, c'è anche una grande band dietro, e sono i Pantera, che adesso li ascolterete e vi renderete conto che sono i Pantera. Esatto. Ma assolutamente, tra le note biografiche del disco, la copertina, non menzionato. Risulta si incontrarono a Dallas e velocemente registrarono questa canzone, e c'è anche Phil Anselmo nelle backing vocals. Ok, quindi questo brano, che è presente solo su questa colonna sonora di questo film, che è antecedente addirittura al telefilm famoso di Buffy la Vampire. Esatto, Lights Comes Out of Black, ed è il pezzo proprio che chiude la colonna sonora di questo Buffy the Vampire Slayer, quindi Pantera con Rob Halford. Oh! Si sente che in Pantera ci sono presenti, chissà come mai, forse per contratti discografici non hanno voluto o potuto scrivere il loro nome. Anche in Phil Anselmo, oltre ai backing vocals, era molto presente. Rob Halford, quindi quest'altra super rarità dalla colonna sonora del film Buffy the Vampire Slayer, solo qui la trovate questa Light Comes Out of Black. E invece la prossima non la trovate da nessuna parte, in assoluto, nemmeno noi l'avevamo più, perché nei nostri archivi, da quando siamo passati al digitale coi server, una volta avevamo i bei nastroni con i Revox eccetera e si teneva archiviato, non abbiamo più nulla di quello purtroppo. Doppio ringraziamento a Simone. Che invece ci ha recuperato questo file audio riposizionato su CD, lui l'ha registrato direttamente dalla radio, e stranamente quel giorno la radio funzionava, perché di solito era tutto cric crac cric cruc, sentiva perfettamente, quindi è una registrazione. Ricordiamo che in questi 18 anni di storia a Rock FM molti gruppi, oltre a venire a trovarci e a parlare durante le interviste, ci hanno regalato anche grandi momenti di musica. Molti, veramente suonando dal vivo nei nostri studi. Gli stessi Queensrÿche di prima, che ogni tanto noi proponiamo con Silent Lucidity e Unplugged, l'hanno registrata qua nei nostri studi. Sia italiani che stranieri sono stati veramente tantissimi. E addirittura non c'entra con questa, col contesto di questa sera, però ricordiamo i Lemonheads che suonarono una versione acustica di Fade to Black dei Metallica, che poi finì come retro. La B-side di un singolo. Gra la porterà, lui ce l'ha. Esatto, la porterà per l'ultima 24 ore, quindi l'ascolteremo. Quindi registrata proprio nello studio più piccolo, quello dove tu registravi, cavo Luca, Wilson Howard là dentro, lui voce e chitarra, ha detto va bene così, questo è rock and roll, eccetera. E nell'aprile del 96. Era il 4 aprile 96. Ti ricordi anche giovedì. Questo? Sì, è un gruppo che era praticamente quasi sconosciuto qua da noi. Buon Lorenzo De Holiday Time Machine li portò in Italia, credette in loro, stampò diversi album, arrivarono anche nelle prime posizioni delle classifiche di vendita italiane all'epoca. C'è da dire che anche Rock FM ha creduto molto in questa band, ha dato tanto spazio perché ci credeva proprio. Sì, in effetti stiamo parlando degli Angra, che all'epoca, ripeto, avevano pubblicato in Giappone il primo album, oltre che in Brasile, eccetera. Sì, esatto, e quindi André Matos, voce, e Kiko Loriero, grande chitarrista, ma tutta la band, poi una delle pochissime particolarità, a parte che siamo diventati poi abbastanza amici, soprattutto di André, vennero diverse volte dal vivo in Italia, e sono uno dei pochi gruppi che siamo riusciti a organizzare, mi ricordo ancora questo, con la live eccetera, il fatto che all'estero succede spesso che un gruppo famoso, invece di voler suonare una sola serata in un palasport con 8-10.000 persone, a volte prenota il club, un club da 1.000-1.500 posti, e fa 4 sere a fila che sono sempre sold out. Qui gli Angra lo fecero 2 sere a fila a Rolling Stone di Milano, 1.800 persone la prima sera, il venerdì, e più di 2.000 la seconda, ed era un sabato. Quindi è stata penso una delle pochissime volte che una band, anche perché chiudevano proprio il loro tour europeo, e hanno suonato due sere a fila alla Rolling Stone a Milano. Questa invece è la registrazione di Make Believe acustica nei nostri studi, gli Angra. dal vivo in acustico a Rock FM tanti anni fa, 1996. Questa è appunto una delle quattro canzoni. E interpretarono Time, Carry On, un pezzo brasiliano, e poi appunto da Holyland, questo Make Believe, grande disco, grande gruppo e veramente grandi, grandi personaggi. Ok, questa era l'altra chicca acustica che abbiamo proposto tra le band che sono passate nei nostri studi, e sono veramente tante. Andiamo invece al... ci hanno chiesto se il power metal l'avevamo messo, non l'abbiamo ancora messo. L'esperto del power metal è decisamente Simone. Grazie. E quindi ho portato questo primo disco. Sì, il primo disco dopo un EP. Dopo un EP. Esatto, degli Halloween, dalla Germania. Questo primo album, c'è Kai Hansen alla voce, subito dopo arriverà Kiske, con il quale incideranno soprattutto i primi Keeper. Due Keeper. Esatto. C'è da dire che gli Halloween sono importantissimi per il power metal, poiché hanno scritto, a mio giudizio, le tre tavole della legge del power metal, che sono appunto questo Walls of Jericho, stupendo, un po' trasceggiante ma molto bello, e poi due Keeper con una produzione esagerata, sono le pietre miliari del, certo, power metal. E il brano che abbiamo scelto è proprio quello che apre l'album, giusto? Allora, sì, dopo l'intro c'è questo brano, Ride the Sky, al quale Kai Hansen, che è appunto il leader, adesso il leader dei Gamma Ray, è molto legato, l'ha scritta lui e la propone molto spesso anche dal vivo, con i Gamma Ray. Con i Gamma Ray. Sì, ce l'ascoltiamo dal primo album degli Halloween. the Sky dal primo album Walls of Jericho per la formazione degli Halloween. 3351007777, ricordo il numero perché stanno arrivando altri sms, come ad esempio Cali il Livornese, che ormai da poco tempo sta lavorando e vivendo in quel di Londra. Dice: grande notte, mi sono trasferito da poco a Londra e anche da qui con lo streaming vi seguo. PS, qui dai londinesi piovono elogi per la radio. Grazie mille. Cal, salutaci Livorno, la città di Londra. Poi, caro amico, quella domanda che mi poni sulla base della sigla non me la ricordo francamente più. Un salutone al super topo volante che sta ritornando a casa dopo la serata in discoteca insieme alla Claudia. Ma da Livorno ci fa sapere che era presente anche lui ad un concerto degli Angra, Time Machine e Van Den Plas. Visto che abbiamo aperto questa parentesi dedicata al Power, Halloween Hammerfall, e anche per gli Hammerfall dal primo album, Simone ci dirà qualcosa. Sì, gli Hammerfall dalla Svezia, è nato come un progetto nelle fila c'era anche Jesper Stromland degli In Flames alla batteria. È nato come un progetto, alla voce c'era Michael Stan e The Dark Tranquility, facevano una specie di festival dove si poteva vincere, chi arrivava primo vinceva un contratto. Sono arrivati fino alle semifinali, poi dopo Stan era impegnato con i Dark Tranquility, allora hanno chiamato Joachim Kanz. Hanno perso le semifinali, nonostante tutto hanno avuto un contratto lo stesso, poi le ha prese il Nuclear Blast e hanno pubblicato Glory to the Brave, che è la d'esordio, che è quello che vi presentiamo stasera. E ormai questa mattina, direi, più che stasera. Sì, è vero, buio per me. No, ma è così, in effetti è così, sembra notte ma è mattina. Assolutamente sì. Alla batteria c'è appunto Stromland degli In Flames, e il resto della lineup è quella, diciamo, classica. Esatto. Anche loro un bel po' di volte, Claudia, li ha intervistati, sono venuti qui diverse volte. Sì, anche io ho avuto la fortuna e il piacere di intervistarli. Di incontrarli. Esatto. Hai scelto Steel Need Steel? Sì, perché quando hanno partecipato a quel festival inizialmente, prima ancora di essere una band effettiva, hanno suonato due canzoni, Unchained e questa traccia che proponiamo stasera. Dal primo album, la formazione è quella degli Hammerfall. Acciaio qui incontra l'acciaio, di acciaio questa sera ne abbiamo colato molto, bello pesante. Hammerfall, dal loro primo album abbiamo scelto questa Steel Meets Steel, quindi abbiamo fatto gli Halloween, Hammerfall, H con H, ma però ci spostiamo, non c'entra nulla, adesso sì. Il terzo è un cantante tra i più grandi attualmente. Attualmente sì, esatto, sì. Arriva dalla Norvegia. Sì. Dalla Norvegia, è un cantante che ha suonato, l'hanno chiamato in tanti, a volte si è trovato ad avere due o tre band contemporaneamente, un sì. po' come Jeff Scott Soto, esatto. Non sapeva più era il prezzemolo dove andare. E tra parentesi arriverà tra breve in uno dei festival estivi qua in Italia, il Rock and Field Festival, che si terrà a Milano, all'Idroscalo, sono gli headliner, quindi è il progetto di Tobias dei Yeah Guy, cioè gli Avantasia, che sull'album unisce tanti musicisti, tanti artisti, eccetera. Riusciranno ad essere presenti alcuni, ci sarà Andre Matos e ci sarà anche questo come cantante. Yorland. Ecco. Yorland. Masterplane, sì, Ark. Allora, tantissimi nomi di band si possono collegare a lui. Ha cominciato con i Vagabond, con i quali ha inciso due album, dopodiché ha inciso un album, e ancora era sconosciuto, con i Mundanus Imperium. Sempre sconosciuto, è rimasto. Esatto. Poi vabbè, ha cominciato anche con gli Ark, già lì ha acquisito la notorietà, il Mastermind. E diciamo la vera notorietà è arrivata con la band, all'inizio era un progetto, comunque poi è una band, che erano i Masterplan, esatto, lì è stata la grande notorietà. Poi addirittura è andato anche con Malmsteen in tour, poi ha litigato. Strano. Durante il tour se n'è andato. Strano. E poi lunga carriera solista. Lunghissima, sì, dappertutto. Oggi hai portato il suo secondo gruppo in pratica. Sì, sarebbe il secondo gruppo, più che altro è nato come un progetto, perché gli ex componenti suonavano una musica più estrema, dopodiché hanno deciso di fare un qualcosa con più tastiere, quindi un po' più sinfonico, e hanno reclutato appunto Yorlande come voce. Da prima veniva definito come l'erede di Coverdale. Sì, in effetti dal vivo ogni tanto lui qualche cover dei... Anche perché ha militato nei The Snakes, che è ben formata da due membri, due chitarristi che abbiamo ascoltato prima. Esatto, degli Whitesnake. Bene, allora non ci rimane altro che ascoltarlo qui con la band chiamata Mundanus Imperium. Dream. pezzo d'apertura di questo album dei Mundanus Imperium con Your Land Distant Conglomeration, il titolo del brano. Abbiamo quindi ascoltato anche un qualcosa di diverso dal solito e di difficile reperibilità sul mercato, comunque 1998 la pubblicazione di questo album per Your Land. Allora, vi andiamo a salutare. Walter in quel di Genova che è presente, ancora Andrea da Firenze che dice: mi sono svegliato con la febbre e mal di gola, ho acceso, c'era Ride the Sky. Beh, ti sei perso tutta la prima fase, rimani con noi almeno in quest'ultima, visto che mancano 10 minuti alle ore 5, tra non molto entreremo negli ultimi 60 minuti, qui abbiamo ancora materiale almeno sino a mezzogiorno, anche noi poi andremo a dormire, caro Max. Come ci aspettavamo, il tempo, nonostante così sembrasse lunghissima questa nottata, 6 ore di hard rock e heavy metal, non ci permetteranno ovviamente di farvi ascoltare tutto ciò che abbiamo preparato per voi, ma questo era abbastanza scontato. Sì. In ogni caso continuiamo e torniamo a dare un taglio più classico, se volete, decisamente più classico al nostro sound. Infatti li avevamo citati un po' di ore fa, ormai non mi ricordo più a livello di orario, quando si parlava di gruppi tedeschi abbiamo detto gli Asset e gli Scorpions. Gli Asset li abbiamo già proposti e adesso ci sono gli Scorpions. È giusto che arrivi anche il momento per gli Scorpions. Tra l'altro ne approfitto anche per questo intervento per salutare, visto che qualcuno giustamente dice: ma non leggete le mail. Ma ha ragione, leggiamo anche le mail. Allora salutiamo Simona che dice: che bello sentirvi anche di notte, siete i più grandi sempre, grazie. Un abbraccio al fratello Mozart, più metallante che mai fino alle 6, grazie e complimenti. Un bacio all'amica Franci da Firenze e un bacio anche a Jeska, super esperta di buon rock and roll, che anche di notte continua a seguirci. E poi salutiamo l'amico Fede da Ponte a Greve e da Signa, e scrive: cioè, avete proprio ragione, avevano Paul Di'Anno, gli Iron Maiden, e poi non l'hanno avuto più, era tutta un'altra cosa, un altro che come me preferisce il primo vocalist degli Iron Maiden. Viva Rock FM, intesa come DJs, vi si porta i chianti, ai proprietari della radio invece solo schianti. Però lo stesso Paul Di'Anno recentemente ha ammesso: beh, forse se rimanevo negli Iron, gli Iron non avevano questo successo, non arrivavano, credo secondo sia lui. È stata un'affermazione giusta da parte sua e coerente comunque con il suo personaggio. Ma non parliamo di Iron Maiden, parliamo invece di Scorpions, sono loro che andiamo a citare. Tra l'altro in uno dei due capitoli si parlava qualche ora fa dei The Flappard, che non hanno mai realizzato un album dal vivo nella loro carriera. La band in questione invece, quella degli Scorpions, ne ha realizzati un bel po', ben due, almeno due doppi live, due doppi su live. Vinili ce li ricordiamo, poi probabilmente ha pubblicato qualcosa con l'orchestra DVD, ormai non si contano più queste cose. Esatto, però le due pubblicazioni, quella la prima Tokyo Tapes fondamentale, invece quella che andremo a cercare questa sera è il loro classico Worldwide Live. Io devo confessare, questo è stato uno degli album che mi ha un po' così fatto crescere dal punto di vista dell'apprezzare la musica rock. Si parla dell'anno 1984, o almeno a cavallo fra l'84 e l'85, un tour mondiale che li vide grandi protagonisti. I tempi erano quelli di Love the First Thing, uno degli album che, se non erro, dal punto di vista commerciale ha venduto di uno dei più grandi successi, ovviamente. E allora andiamo a rivisitare gli Scorpions da questo Worldwide Live, quella canzone che anche sull'album apriva questo lavoro. La canzone era tratta proprio da Love the First Thing. Questo è il boato della gente, con una partenza in vinile con un po' di... va bene così. Questa la dedichiamo a tutti coloro i quali dopo una lunga nottata si accingono a tornare a casa. Andate piano, eh? Andate piano e apprezzate il buon rock and roll. Questo è lo special Arden Davy Nightmare su Rock FM e si chiama Coming Home. Versione live per Coming Home, questi erano ovviamente gli Scorpions da Worldwide Live, una delle testimonianze tante, come dicevamo prima, che nella loro carriera hanno dato delle loro immensi tour mondiali che li hanno portati veramente a portare il buon rock and roll in giro in ogni angolo del pianeta. Questo era datato 84-85, questi sono i due anni che erano presi in considerazione nelle canzoni e nei brani inseriti in Worldwide Live. Dopo gli Scorpions abbiamo citato già una volta i Kiss, vi ho già regalato una perla dal repertorio dei Kiss proponendovi qualcosa dei Wicked Lester, che era la formazione che poi in seguito sarebbe diventata Kiss, e ovviamente non possiamo che citare anche la formazione dei Kiss nel suo periodo più famoso, anche se devo dirvi che la canzone che sto per farvi ascoltare, e vi farò una piccola confessione, è in assoluto la mia preferita, quella che mi ha fatto amare questo gruppo. La versione che vi sto per far ascoltare non è la versione che è presente sull'album, che era Love Gun ed era ovviamente la title track che stiamo per ascoltare, ma è una demo version che è contenuta in un preziosissimo cofanetto che qualche anno fa ho avuto il piacere e l'onore, e anche, vabbè, insomma, non è costato poco, ma va bene, come tutte le cose marchiate Kiss. Esatto, diciamo che i Kiss nella loro carriera si sono distinti, oltre che per la qualità del buon rock and roll, anche per un ottimo sfruttamento del marketing e del merchandising. Sono bravi loro. Cosa che tra l'altro li contraddistingue ancora adesso. Certo. Questo è sicuramente da sottolineare, questa cosa. Quindi la demo version in genere è il fatto, è una pre-produzione, sono le prove che si fanno in studio, non è il prodotto definitivo che poi viene masterizzato sul CD. Quindi può avere dei volumi differenti piuttosto da uno strumento alla voce, eccetera, eccetera. Esatto, diciamo che la struttura della canzone è fondamentalmente quella, però ovviamente i suoni sono differenti perché probabilmente sono stati realizzati in uno studio con dell'attrezzatura tecnica magari non eccessa come quella che viene utilizzata poi per gli album. In ogni caso non potevano mancare ancora una volta i Kiss, anzi in effetti è la prima volta che li ascoltiamo questa sera, prima erano i Wicked Lester. Allora eccola la demo version dei Kiss, questa è Love Gun. Oh, quasi strano parlare di un demo, vista la qualità che ci hanno proposto anche in questa versione. Eh sì. Però ovviamente parliamo dei Kiss, quindi anche le demo version erano sicuramente preparate in studio e con materiale e strumentazione all'altezza. Erano i Kiss con Love Gun, la loro demo version, una delle tante rarità che stiamo cercando di proporvi in questa nottata che è sì dedicata all'hard rock e heavy metal, ma che comunque stiamo cercando di impreziosire appunto con la qualità della proposta.